Per calcolare i chilometri da percorrere, dovete sommare le due ipotenuse, 10 km e 5 km. Quanti chilometri dovrete quindi percorrere?